Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Nuova puntata dal mondo della scuola, anche oggi legata al tema della vita. È un filo rosso che ci fa piacere riprendere con due ospiti che proprio sono legate al Movimento per la Vita. Orietta Busatto, che è presidente trevigiana dell'MPV e coordinatrice provinciale dei Movimenti per la Vita e dei CAV, bentornata. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Patrizia Nappa, che nell'ambito del Movimento per la Vita si occupa di un concorso scolastico europeo di cui parleremo più tardi e di progetti per le scuole. Benvenuta. Buongiorno, ciao Mirko, buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie dell'invito. Tante iniziative appunto che mettono insieme il tema della vita e le attività scolastiche. Partiamo da un corso concorso di poesia rivolto a scuole primarie, un'iniziativa che ha già qualche anno di vita sulle spalle. Corso concorso è curiosa come modalità. Chi vuole cominciare? Beh, comincerei io, sì. Orietta. Bene, già nel 2010 siamo partiti con questo progetto. Si tratta di un corso, in quanto è un percorso di 4 incontri con i ragazzi delle scuole primarie, dove attraverso lo strumento della poesia, quindi la poesia è uno strumento che si affianca allo strumento del colore e del disegno, viene data voce alla parola dei ragazzi che esprimono il valore della vita e soprattutto le emozioni, le sensazioni, il mistero che la vita suscita in loro e che cosa per loro significa dono, vita come dono, vita come mistero, vita come impegno e anche scoperta della vita come incontro. Viene affrontato anche il tema proprio della nascita, del primo momento, proprio di quello che è il momento generativo, quando il bambino nasce e incontra la madre, e allora la madre esprime questa emozione bellissima della gioia di avere un figlio attraverso la dolcezza di una lacrima. E quindi si parte da lì per un lungo percorso che poi finisce in un concorso, nel senso che tutti i ragazzi poi attraverso i loro elaborati vengono valutati e un'equipe di poeti dà valore a questi elaborati cercando di definire quelli più significativi perché originali o quelli più interessanti perché più corretti nella loro formula, e quindi c'è un momento di premiazione finale che ha lo scopo non tanto di dire chi è il primo e chi è l'ultimo, ma di valorizzare il prodotto di questi ragazzi. È iniziato nel 2010, siamo a riproporlo tutti gli anni. Quest'anno siamo a Treviso, abbiamo scelto la città di Treviso e abbiamo iniziato proprio questa mattina con due classi, due quinte, la quinta A e la quinta B della scuola paritaria del Pio X gestita dalle suore di Maria Bambina, e quest'anno i poeti in gioco sono Gallina e Bucceri, accompagnati un po' dalla poetessa Alberti dietro le quinte, che è un po' la grande autrice di questo progetto. Non so, Patrizia, se vuoi integrare. Sì, che dire, noi abbiamo iniziato nel 2010 promuovendo questo concorso con sotto forma di progetto pilota con la scuola di elementare di Povegliano, dove lì conoscevo alcuni insegnanti, e quindi ci hanno dato l'opportunità di partire, hanno accettato molto favorevolmente questa nostra proposta ed è stato molto bello vedere come proprio i bambini hanno espresso proprio le loro emozioni più intime su questo concetto della vita, sull'amore tra il papà e la mamma e proprio sulla nascita della nuova essere umano. Quindi sono stati veramente dei momenti molto emozionanti, soprattutto nel momento poi della cerimonia di premiazione, perché lì è stata fatta quindi una cerimonia aperta poi a tutti i genitori e quindi sono rimasti tutti molto sorpresi in modo proprio molto positivo, ecco. Quindi poi l'abbiamo riproposto ogni anno perché poi ci è stato chiesto, ecco, che venisse riproposto. Esatto. Appena iniziato, dicevi, Orietta, con sì, le scuole primarie del Pio X di Treviso, alcuni incontri di corso, quindi si prevede di arrivare alla conclusione quando? Sicuramente penso verso fine maggio. Nell'istituto ci saranno, penso, un 4-5 incontri. Dico penso perché poi è il feedback che ti danno i ragazzi che ti porta a valutare se è il caso di aggiungere un altro appuntamento oppure se 4 appuntamenti sono sufficienti. La cosa che è straordinaria è che ogni anno noi registriamo che attraverso la poesia tutti i bambini e le bambine hanno qualcosa da dire di veramente grande sul dono della vita. Anche chi per esempio ha difficoltà linguistiche e quindi magari va da una logopedista, ha una disabilità, ha una difficoltà nell'apprendimento, riesce attraverso la poesia a comunicare, riesce a comunicare qualcosa di veramente grande che lascia ferma per un attimo tutti quanti, ti lascia fermo. E allora io dico benvengano questi progetti, perché la scuola è fatta anche di educare al valore della vita e del dar diritto di parola a questi contenuti. La cosa che mi è piaciuta moltissimo l'anno scorso era vedere per esempio che c'erano i nonni e alla premiazione finale c'erano i papà e le mamme, e ciò che era particolare era il loro stupore nel pensare che il loro figlio, con la loro semplicità, con un linguaggio da bambino, potesse dire cose che nemmeno i grandi oggi si ricordano di dire. E che scavalcano magari tanti dibattiti, certo, che sentiamo anche in questi giorni. Parlo con le parole più semplici, più naturali. Voi le avete raccolte queste poesie? Sono... Sì, sono state raccolte. Tra l'altro è stato fatto anche un libretto proprio sempre con la partecipazione della poetessa Renata Alberti e della Buceri. Una raccolta delle poesie proprio su questo tema, il titolo è Dentro la vita. Il tema di quest'anno? Il tema di quest'anno rimane Dentro la vita a mani aperte, inteso come accogliere il dono della vita, che può essere anche accogliere una vita che non ha sempre gli stessi odori, gli stessi colori o le stesse fortune che tu vorresti, quindi a mani aperte, quindi pronti per accogliere, per ricevere, ma anche per dare, per condividere. E allora sentiremo a fine maggio i componimenti di questi ragazzi, certo. Un po' di pausa e poi parliamo dei percorsi formativi per i genitori. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Carissimo signor Tentenna, non è facile assumersi il rischio di una scelta e servirsi addirittura di parole proprie. Mimetizzarsi e vivere di luce riflessa in fondo ad acque torbide. Tra miseri, inganni e menzogne, complessi di inferiorità, ingombranti manie di grandezza. Signor Tentenna, non è motivo di vergogna il non saper centrare alcun bersaglio, l'aver mancato l'ennesimo colpo irrimediabilmente. E ben poco importa se tua moglie non fa altro che piangere, ossessionata dal sentore dei tuoi numerosi tradimenti, ingurgita ignoti dolori ed elevate dosi di calmanti. Ormai consuetudine, signor Tentenna, perdersi d'animo, non essere all'altezza delle proprie ambizioni e sgomitare per distinguersi dal branco. L'ignoranza è un non trascurabile complesso, una voragine. Si può occultare nel silenzio, scansando il pericolo di un mite confronto diretto. Signor Tentenna, non è motivo di vergogna il non poter vantare alcun talento, l'aver rincorso l'ennesimo treno inutilmente. E ben poco importa se tua moglie non fa altro che piangere, ossessionata dal sentore dei tuoi numerosi tradimenti. In fondo non ha tutti i torti e non è fatto un caso se amanti, amici e sogni si dileguano. Il cane sul balcone aspetta da mesi il privilegio di una passeggiata, eppure la sera fedelmente esulta al tuo rientro. Chiede perché mai sia così misera la vita. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Ancora insieme, puntata dal mondo della scuola legata al tema della vita, insieme a Orietta Busato e Patrizia Nappa del Movimento per la Vita Trevigiano. Orietta, abbiamo parlato poco fa del corso concorso di poesia che è ripreso anche quest'anno per bambini, ma ovviamente ci sono anche i genitori dentro la scuola, come ben sappiamo e ben sanno i nostri ascoltatori. Avete predisposto dei percorsi formativi per genitori. Sì, ci siamo proposti a genitori di diverse fasce, ci siamo proposti ai genitori delle scuole primarie sempre qui a Treviso, aprendoci con un progetto alla scuola sempre del Pio X, sia quella gestita dall'Istituto Religioso Maria Bambina sia quella dello Zanotti. Sono state quattro serate che si sono collocate tra il mese di gennaio e il mese di febbraio, già avviate e già concluse. Che cosa hanno visto? Hanno visto un gruppo di genitori interrogarsi su che cosa significa fare cura educativa, cosa significa quindi mettersi all'interno di un progetto dove un genitore deve andare oltre l'accudimento, che è fatto del dare al proprio figlio tutto ciò che è necessario, pianificato e programmato, va un po' oltre nel momento in cui si sente responsabile di un percorso dove il figlio viene preso per mano e viene condotto, partendo dal riconoscimento della vita come dono, attraverso poi il riconoscimento che l'identità è qualcosa che è fatta anche di due generi, maschile e femminile, quindi devi conoscere la tua identità, devi apprezzarla, ma devi anche imparare a rispettare la tua identità come sei. Ci siamo avvalsi dell'aiuto di uno psicoterapeuta, perché la tematica è complessa e quindi vai sempre un po' a toccare alcuni elementi dove la chiarezza dei termini è fondamentale. Quindi ci ha aiutato un po' il dottore Edoardo Vian, che era già un po' esperto nella questione sul cosa significare educare all'affettività e alla sessualità, e soprattutto accompagnare i genitori in questa educazione. Quattro incontri, dicevo. Allora, se è vero che nel primo abbiamo ragionato molto sulle radici della cura educativa, mi piace esprimere tutto il primo incontro con un esempio, una metafora. Ognuno di noi, quando è genitore e quando ancora, se non è genitore, è adulto, è un po' come un quadro dove c'è già qualcosa di disegnato. Sono le radici che ti porti dentro, sono i modelli educativi che ti porti dentro, la cura che ti è stata data, ciò che ti è rimasto impresso rispetto a quella cura. Poi però la cura educativa che metti in campo tu arricchisce quel quadro. Allora essere consapevole di quello che noi trasmettiamo nella nostra cura educativa ai figli è importante, perché questa cura educativa è fatta di contatto fisico, è fatta di parole, è fatta di gesti, è fatta anche di azioni di servizio verso i figli, è fatta di modelli di identità che esprimo e faccio vedere ai figli, ed è fatta anche del coraggio di dire i sì e i no e dell'assumersi il ruolo. Una poi delle tematiche principali che abbiamo affrontato è stata quella della sessualità, perché comunque viviamo in una società dove la sessualità viene esposta a volte in maniera anche molto forte, molto violento, con un linguaggio unico, con una ridondanza di disvalori a volte che sollecitano i ragazzi. Ora ci siamo posti una domanda con questi genitori: è legittimo lasciare questi ragazzi in balia di un modello unico? È legittimo lasciarli bersagliati da questo modello senza mettersi a fianco di questi ragazzi e cercare di vedere, di leggere il valore o il disvalore che c'è dietro? O forse è più produttivo leggere il modello, far emergere quello che il modello comunica, il valore e il disvalore, e affiancare a questo modello altri modelli? Ti chiedo se i genitori nel corso di questi incontri su questi temi ti sono sembrati che abbiano aperto gli occhi o ne erano già coscienti, cioè come si sono posti? Beh, ho visto una partecipazione sempre maggiore, un crescendo proprio non solo numerico ma proprio di partecipazione attiva, no? Di coinvolgimento, di mettersi in gioco. Inizialmente sì, un po' così titubanti, un po' scettici, ma anche un po' come se forse andavamo a quasi che andassimo a proporre qualcosa di scontato, no? Poi nel mettersi in gioco, man mano che facevano il percorso, andavano invece a rivedere che in realtà spesso l'atteggiamento passivo che noi assumiamo come adulti non è che non educa, lascia che l'educare venga svolto da altri. E intanto i modelli entrano, si consolidano e se sono unici non sono positivi. Ecco allora che il mettersi in gioco, il riscoprire che le parole che dice il padre e la madre sono fondamentali, beh, questo li ha resi sempre più partecipi, proprio anche nel porsi le domande. Certo, e nell'essere consapevoli di ciò che sono. Prima parte svolta appunto con i genitori di alcune classi del Collegio Pio X, prossime tappe per altre città, altri istituti, altre fasce d'età. Sì, allora, prossime tappe. Saremo al Collegio Balbi a Pieve di Soligo con i genitori della secondaria di secondo grado. Quindi andiamo ad analizzare una situazione educativa un po' diversa, un po' più complessa, no? Perché i ragazzi della secondaria sono ragazzi che richiedono un tipo di cura che non è meno importante, anzi spesso viene relegata quasi all'accudimento e quindi chiede più attenzione. Con loro poi andremo a considerare proprio quelli che sono i modelli legati all'identità di genere, alla sessualità, all'affettività che i ragazzi mettono in campo, che chiedono di esprimere, per capire se questi modelli sono in realtà la ridondanza di un unico modello, se sono modelli condivisi in famiglia e se sono modelli che possiamo lasciare comunque che vadano avanti senza aver qualcosa da proporre di diverso. E infine verso maggio andremo al Collegio Immacolata di Conegliano e lì ci incontreremo con i genitori della secondaria di primo grado, quindi tre fasce completamente diverse, diciamo dal bambino ancora nella fase dell'infanzia al ragazzo quasi prossimo alla maggiore età a quella che è la fase più critica, che è la preadolescenza, dove certo. L'identità è molto piena di fuoco e sollecitata. Grazie Urietta, facciamo un'ultima pausa e poi con Patrizia approfondiamo i temi, gli argomenti del concorso europeo. Dal mondo della scuola. Ultima parte, la puntata di oggi dal mondo della scuola, insieme a Urietta Busato e Patrizia Napa del Movimento per la Vita. Già quando siete state nostre ospiti ormai 2 anni fa, tanto è passato, avevamo fatto cenno di un concorso europeo che poi ha delle declinazioni nazionali e locali. Ecco Patrizia, dici che cos'è questo concorso e un cenno sull'edizione 2013 prima di passare a quella di quest'anno. Sì, allora il concorso europeo è un concorso scolastico indirizzato ai ragazzi delle scuole superiori. È un concorso promosso dal Movimento per la Vita Nazionale per quel che riguarda il triennio delle superiori. Noi come Movimento per la Vita di Treviso lo estendiamo anche ai ragazzi del biennio, quindi prima e seconda superiore, con l'aiuto di una banca che ci sostiene devolvendo delle borse di studio ed è la Banca Prealpi. Quindi diciamo abbiamo un enorme... platea di ragazzi che ogni anno si avvicinano a questo nostro progetto e ho visto insomma nel corso degli anni, io dal 2008 che lo seguo come referente a livello provinciale, e ogni anno i ragazzi aumentano sempre di più, le scuole interessate che avviano anche loro con i loro studenti la partecipazione a questo concorso aumentano anche le scuole, quindi siamo molto contenti proprio del risultato che stiamo ottenendo in questi anni. L'anno scorso è stato la cerimonia di premiazione è stato un qualcosa di veramente eccezionale, commovente, forse per la tematica anche che è stata proposta o forse proprio perché, non so, ogni anno forse anche gli insegnanti ci mettono del suo, i ragazzi sono sempre molto sensibili a queste tematiche. Io posso dire che leggendo i temi, gli elaborati, oppure guardando proprio i video che i ragazzi hanno prodotto, ho notato appunto in loro che ci sono veramente dei valori forti, dei valori che hanno bisogno di essere riconosciuti e hanno voglia di manifestarli fuori. Forse non sempre vengono ascoltati i ragazzi su queste cose, perché si propone loro molto spesso delle cose molto più futili, molto più che si va molto più sul materiale, e invece hanno veramente qualcosa da dire, da insegnare a noi adulti, forse più di quanto ci immaginiamo. L'anno scorso si partiva dal tema della vita nascente, legato anche alla raccolta firme Uno di Noi, sì. E quest'anno invece si fa un passo avanti. Sì, l'anno scorso il titolo era Uno di Noi, la persona umana nel cuore dell'Europa, e si ricollegava proprio all'iniziativa di raccolta firme dei movimenti per la vita, proprio per estendere la protezione giuridica della dignità, del diritto alla vita e dell'integrità di ogni essere umano, fin dal concepimento. Era una raccolta firma voluta a livello europeo, servivano 1 milione di firme e ci siamo riusciti. Noi qui, se vuoi riagganciarti, Orietta, come sì, Movimento per la Vita. Nella città di Treviso il Movimento per la Vita insieme al Centro Aiuto alla Vita ha raccolto 8.500 firme, ma come coordinatrice provinciale posso dire che solo nella diocesi abbiamo superato le 13.000 firme. Direi un buon risultato. Ritornando un po' al discorso del concorso europeo, l'anno scorso, Patrizia, ci sono stati degli elaborati veramente interessanti. Sì. Peccato non avere l'opportunità anche economica per poterli pubblicare, perché qualcosa di così vero, così bello, così profondo, era da tanto che non lo sentivo come pedagogista. Sentire dei ragazzi che ti chiedono di poter parlare del diritto alla vita e che ti parlano del dono del diritto alla vita, e te ne parlano facendo riferimento a situazioni concrete, a scelte, a sì e no, a dei sì e dei no che non solo gli sono stati detti, ma che loro hanno posto. Beh, direi che è qualcosa di molto utile, richiederebbe una lettura da parte di tutti quanti. Anche dei video bellissimi, sì, dove la poesia dell'immagine era qualcosa di incantevole. È riuscita ad esprimere cose che magari non si pensava lo potessero dire. Sì. L'ultimo minuto lo dedichiamo al tema di quest'anno, che è la famiglia. Sì, il tema di quest'anno è la famiglia, no, è il matrimonio, scusi. Il titolo esatto è Il matrimonio, vuoi unire la tua vita alla mia. Il matrimonio comunque si riconduce alla famiglia per noi, quindi la famiglia come nucleo naturale, come fondamento della società, e qui chiaramente si richiedono ai giovani una serie di riflessioni che possono essere, ecco, cos'è per te il matrimonio, che significato ha nella tua esperienza personale. Quindi si richiede ai giovani sempre quello che può essere una sua idea, quello che può essere un suo vissuto all'interno della sua famiglia, quello che vorrebbe lui in un futuro come matrimonio. Ricordo che la scadenza è il 31 di marzo, quindi gli elaborati devono pervenire tutti alla nostra sede nel Movimento per la Vita di Treviso, via Garbizia numero 9. E che dire, quindi il tema è stimolante, perché sì, in molto tempi stimolante. In cui appunto si parla di matrimonio per chiunque, che tutto è uguale, anche i nostri vescovi, ne abbiamo parlato proprio la settimana scorsa, ci hanno aiutato riflettendo proprio sul genere, sul non aver paura di dire padre, madre, maschio e femmina. Esatto, quindi staremo a vedere cosa pensano dai ragazzi. I ragazzi proprio su questo tema, che molto spesso, appunto, come dicevo prima, non vengono ascoltati. Io ringrazio Patrizia Napoli Rita Busato del Movimento per la Vita per essere state con noi. Allora magari ci sentiamo verso la conclusione di questa esperienza, anche per raccogliere e raccontare ciò che i ragazzi avranno detto. Grazie. Certamente. Ancora. Grazie a voi. A te, saluti a tutti. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.